quindi gli unici che ci stavano erano quelli che si chiamano per l'AM e gli ICOM. Per esempio quello che ho venduto io, quello andava molto bene, il 7.4, però era sempre un apparecchio di una certa età e dopo un certo periodo si vuole perlomeno che ci sia una roba nuova, lo cambia. E devo dire che comunque il cambiamento è stato formidabile. Quello, ripeto, è un eccellente, ce l'hai avuto anche tu, quindi lo conosci benissimo, è un eccellente apparecchio, veramente chi lo compra di, ma questo praticamente non è stato usato in effetti, però quest'altro insomma già le alice al pelo, perché a non sentire a te che arrivi 9.40 sul canale adiacente è detto tutto, insomma, con un'antenna alta, una ricetta che permette di ascoltare i tedeschi sul canale adiacente, insomma, vuol dire molto come selettività. E con i filtri anche larghi, questo c'è la possibilità di tutti i filtri, ti potrei stringere fino a non sentirti più. Sì, siccome arrivo alla 7.4 non bellissima radio, l'ho avuto, lo sai, conosco perfettamente, però in AM e in M queste qua si difendono molto bene, molto più bella modulazione, molto più bello tutto, è chiaro che ricezione, soprattutto questo 140 è un baracchino a sintonia continua, no? Non è che c'ha niente di... No, che detto, questi si possono permettere il 430 e il 140 di fare spenti perché non hanno problemi come il 440, se lo lasci settimane spento diventa un casino, capite? Quindi vabbè, poi ripeto, io dopo tanti anni finalmente ho capito e basta, non le voglio più, c'ho queste, ne ho anche un'altra che appena arriva la metto in vendita, sto aspettando appunto perché devo sapere prima cosa ho speso per farla revisionare, cosa ho speso insomma in totale, e poi la metto allo stesso prezzo di quello che ho speso, senza stare lì a guadagnarci niente, non me ne frega nulla, ma non vivo dalle radio assolutamente, si fa per girare così un po' di denaro, un po' di radio tra di noi eccetera, tutto qua. Va bene, ok, comunque tu stai andando veramente alla grande, quindi lascia tutto così che va bene. Lo devo togliere anche dagli altri due, e sono a posto, dato che non ho tre, no, di questo momento in realtà. E ti volevo dire, guarda, sono le 19.18, mi sembra fatta apposta, e ci sono tutti i canali, perché io lo so, li vedo, no? Sono tutti i canali occupati, è una cosa da paura, ma veramente anche ho dei segnali importanti. Se si apre così di colpo questa propagazione, arrivano come missili, fino sotto, e anche nel canale sotto, sopra. Si fa di ex, si fa porco. E niente, io ti volevo dire, sì, con quegli apparati, con quelli vecchi c'era sempre il pericolo, cioè dei condensatori, perché è una cosa che colpisce veramente, quando sono proprio di qualità eccellente, iniziano a gonfiarsi e lì ti nascono tutti i guai possibili e immaginabili. Qua, su questo qua che è nuovo, no? Non so neanche, l'ho aperto ovviamente perché già lo sai, io qualunque cosa prendo ci guardo dentro per vedere come è fatto, se ti metti la mano in testa non ci capisci un tubo. Io credo di averne visto apparati aperti, però qua non riesco a prendere il condensatore, perché sicuramente sono micro condensatori. Il transistor ci vuole il microscopio per vederli, è una cosa che dà paura, guarda. Mamma mia, lascia perdere, ci voglio manco passare. Non ci voglio manco passare, c'è una persona che in grosse difficoltà con l'SMD, guarda, sta diventando pazzo, pure è preparato tecnicamente, sa quello che deve fare eccetera, però mi ha rotto le balle mettere le mani su quel tipo di radio, soprattutto sull'SMD, perché è un casino, fino a quando apre una cambio, transitano, eccetera. Un cuore saltatore, un integrato, mi bomba, ma quando ti trovi tutta quella roba, SMD, minchia, è un lavoraccio, è un lavoraccio. Capisco perfettamente, ecco perché ci fanno pagare fior di quattrini tecnici, perché è un lavoraccio, cioè sono ore e ore e ore di lavoro sopra con lente di ingrandimento, di salda, salda, fai, metti, tira e molla, è un lavoraccio, è un grande lavoraccio. Infatti io non ho fatto altro che spedire in assistenza, mi fanno un allenamento, poi se c'è da cambiare qualche cosettina, ma proprio qualche componentino del cacchio, dopodiché quando arriva si quantifica quello che ho speso e via, la do, perché me lo voglio prendere sia 80 già fra, e vendo l'altro 140 e mi prendo sia 80, tanto c'ho, così c'ho tutte e tre, perché non ho più niente insieme, almeno ascoltare, capito? In giro le balle, ripiatto la direttiva che c'era, a 5 elementi, senza rottore, senza niente, appunto al nord, giusto per ascoltare. Però i 6 metri li voglio, me li rimetto, però li metto su un 680, giusto così per ascoltare, fare due chiacchiere a livello locale, niente di particolare. C'è uno qua, voleva entrare? Riegomi! Sì, adesso ti ho sentito, rivieni avanti pure, dai. Buonasera a tutti, dai, no, però il telefono è impegnato, adesso sono rientrato. Sì. Per un attimo c'avevo il dubbio che fosse qualche tedesco, perché stanno arrivando molto forti e c'hanno, loro già li usano la CPE, ma la sorte, mi sa che siamo solo noi italiani che ci siamo contagiati questo virus dal telefonino e siamo tutti col telefonino a posto di essere con la radio, a prescindere dal tipo di radio. Porca la miseria, sono, occupano tutti i canali, io, siccome c'è anche il traduttore automatico anche per la radio, e sento che fanno di queste, o parlano di tecnica, parlano di tutto di più, di soldi, anche io stavo parlando di soldi, e anche dal fatto che di là sono tutti chiusi, insomma, micidiale. Riprendi Claudio Paggiano. Sul 28 già, ho visto c'era qualche sul 10, stavo facendo le prove con Gianfranco, Massimiliano, e poi ho detto facciamo al 10, vediamo se c'è qualcuno, poi non abbiamo visto c'era più nessuno. Avanti già, riprendi. Sì, vabbè. Che è successo? Non lasci il radio. Bene. No, non ci è uscito. Perché ha parlato Gianfranco? No, lo stavo dicendo che non ci riesce a uscire. A uscire bene perché si è interrotta di colpo. Probabilmente va a prendere molto male. Mi confermi che quello che vuoi prendere c'ha i potenziometri scorrevoli. Ma cosa un po' così mi pare. Sì, c'è il potenziamento scorrevole, sì, Gianfranco, quella serie lì è molto bella però. Guarda, se ti dico la verità, quei potenziometri a me non piacciono perché tendono a essere delicati. Quello che invece mi piace molto è quel bellissimo sniffer analogico, quello sì, quello è veramente bello, grande. Tutto analogico, Gianfranco, io anche l'HF, se ben ti ricordi, infatti stavamo detto a te che il 7004, quando io l'ho comprato, sono rimasto un po' deluso, perché avevo lo smitter digitale, cazzo, era una rottura di balle, così il quando ho preso il nuovo, non mi ricordo adesso, beh, meno male che aveva due funzioni, digitale e analogico, perché ho tutte le radio digitali, ho tenuto il 756 sino alla fine, perché aveva lo strumento analogico, capito? A me digitale non piace, le V e le U ho cambiato dal TS2000, come ti stavo dicendo, ho preso due gemellini della Icon, 275 e 475, proprio perché aveva uno strumento analogico, non mi piace a me lo strumento, anche perché non serve a niente, non è uno strumento che ti dà proprio la visualità bella, si muove, capito? Quello è proprio il minimo, il massimo. Ah, sì, 9.10 però sta lampeggiando 9.20, cosa vuol dire? Ma non esiste, capito? Ci sono dei LED, non sono neanche digitali, sono dei LED lì messi, ma il 450 è la stessa cosa, bellissima radio, bellissima, bellissima perché l'ho avuta, un grande funzionamento, un grande ricetrasmettitore 450 della Kim, il TS450. Il FT450 non mi piace, ma il TS450 della Kim, sì. Però c'è lo strumento LED, è un funzionamento del carrier, del coso che non mi piaceva, quindi l'avevo cambiato. E avanti Gianni. Sì, Ariane. E vabbè, comunque ce ne sono parecchi a buio, solo che non c'è molto spazio, se no me ne sarei preso altro. Per base. Sì, già, per in base devi fare il lavoro che ho fatto io, però purtroppo ce l'hai tu lì e non hai una carta in più da dedicare come ho dedicato io perché sono molto belli. Io ho fatto una bella scrivania, una bella base con tutti i vintage base, ce n'è un altro in arrivo, ma poi ce l'ho tu, mi blocco perché altrimenti si scatta un minisangue perché insomma ho già investito un bel po' di soldini. Come puoi subire, ripeto, quello che hai visto tu, quello dovevo prenderlo io, solo che prima ho detto una cosa, poi ho fatto un altro prezzo, io quel prezzo non lo compro più, non mi interessa, tutto qua, se no l'avrei preso tranquillamente quello che hai visto tu, una bellissima radio, molto bella, è della serie Rose, mi piace, però a quel prezzo non si viaggia, anche perché avevamo già messo d'accordo, quindi a me quando succedono che cose non mi interessa più. Avanti Gianfra. Ne sto guardando uno che di 680, che infatti c'hai 349 euro, comprato subito proposta di acquisto, però è del 17 ottobre 2020 questa installazione, però c'è scritto anche in venduto IW0FV qualcosa. No, vedere se c'è ancora. Come prezzo mi sembra buono, dai. Ma io non ci vado a comprare radio così fuori, già fai, cioè, grazie a Dio, questa che ho preso, questo 140 è immacolato, uno nuovo. Però adesso è stato, prima di darmelo è stato mandato a Bianconi a revisionare, c'è ancora l'adesivo di Bianconi in mezzo dove sono le viti, proprio perché non è stato aperto, cioè l'adesivo non è stato rotto, quindi non è stato aperto. E l'altro che ho comprato praticamente è ancora più nuovo di questo, però non mi piaceva molto la ricezione e l'ho mandato a centro-assistenza a fare una revisione completa delle tarature, delle cose eccetera. Me lo volevo mandare questa settimana, però ho avuto problemi, quindi me lo mando la prossima settimana, capito? Poi lo metto in vendita, ma revisionato, a posto, contratto di garanzia, capito? E con quei soldi lì mi prendo il C80, però ce l'ho già sotto mano di uno che conosco, non ne compro su internet io di queste radio, ce l'ho prendi certo in curato, ma stai scherzando. Queste sono facilissime da toccare, le aprono, toccano le resistenze variabili, le spostano, aumentano lo smitter così a occhio, a cacciavite, non si fanno queste cose. Per fare queste tarature ci vuole la strumentazione, infatti l'ho mandata su, mi ha detto che in ordine è perfetta, ci sono delle cosettine ma leggere da vedere, c'è una resistenza variabile da sostituire che è del processore, me la sostituisce e poi le fa un bel allineamento completo MFM SSB e me la rimanda giù. Sono contentissimo perché la radio è veramente nuova, gli slider che ti dicevo io, molti si mangiano il colbittino perché raschiano, questa e l'altra sono nuove frontalini e i case sono nuove, non hanno un graffio, internamente sono a posto, quindi ne vale la pena più del 440 perché il 440 a me mi ha sempre creato problemi e non li voglio più sapere. Dopo lunghe penose malattie perché lo vendevo, quello ricompravo, lo vendevo, ricompravo, adesso ho detto basta. L'ho venduto, mi sono comprato questo 140, poi è capitato un'occasione e ne ho preso un altro e dovrebbe arrivare la prossima settimana. Avanti Gianni, lo compro 440? No, Massimiliano. Ma non l'hai spedito ancora? No, mi sto spostando un attimo i punti. buonasera a tutti, stavo facendo roba con Muzero su giù e niente, va. Non so chi c'è, sono arrivato in controllo gentilmente. Guarda un po' già, ciao, buonasera, ben ascoltato. Vedi un po', la radio se buona, se tutto a posto. Ah, no, aspetta, di segnare la radio dove sia, poi siamo appena appena forse. Ancora, niente, di meno non è buono, mi chiede. È più basso di uno, più basso di uno. Ecco, così va bene, così sei perfetto. Sì, ma ci vediamo, perché stavi gridando e stavi. È un bel forte di radio. Guarda, ma non l'hai imballata ancora? No, non l'attivo, già. Ci penso dopo, va. La sto lasciando accesa. E niente, va. Dai, mi sposto. Al limite riprendo o dopo o non lo so. Ciao, dopo. Ciao, ciao, Massimi, siamo qua, vai. Ancora siamo qua. Avanti, Gianfranco. Sì, ciao, Massimiliano. A dopo, buona giornata. Sto guardando il mio, cioè il mio, quello che c'avevo io, anche tu, il 7004. Cavolo, ma manca nel prezzo, ne vogliono quant'è? Eccolo qua, 790, alla faccia. Quello è il prezzo, Gianfranco, quello è il prezzo, dalle 700 alle 800, ancora, è una radio che tiene il prezzo, sì, perché è bella, qui c'ha le VHF anche, capito, 100 watt, è una bella radio, ma che cosa non piace è il sistema digitale, se avessi avuto lo smitter analogico l'avrei tenuta quella radio, ma l'avevo data e preso il... Senti di più, però non ho scolato. faccio la protesi, non mi fa male per niente, e me la lotta passasse. Lo so, già, però da vedere i numeri, capito? Se andare con i numeri a te è andata bene, fortunatamente, ma molti che conosco, insomma, ci sono stati camminando e ci sono usciti messi male sul serio. E purtroppo è così, certo la fortuna è fortuna, se non ce l'hai puoi andare anche dal meglio al meglio, se ti fa andare male ti va male, questo non c'è dubbio, però come numeri i numeri sono importanti, ecco, se va male a 9 su 10 uno si inizia a preoccupare, anche a 8 su 10, se fuori va bene, va male a 1 su 10 e gli altri 9 sono a posto, allora uno si fa anche delle domande, no? O no? Riprendi Claudio. Sì, diciamo sono bravissimo, l'operazione è andata bene, però chiaramente dopo capito, infatti gli ho detto, avevo un po' di pazienza, avevo un po', ma lei vuole fare, ma ancora non è possibile, già capito, però il resto è andato tutto bene, grazie a Dio, anche a lei non farà attacco alla ciaccia al policlinico, poi tra l'altro un ortopedico che non è neanche di qua, viene apposta da fuori dal continente per fare questo tipo di operazione, quindi non è quello il problema è che secondo lei dovrebbe già camminare, fare, invece quando appoggia il piede le fa male, cambia un po' di pazienza, che non ti boccio di cosa ne so io. Quanto tempo è la roba? Qua già, gli hanno tolto i punti 5 giorni fa, quindi l'operazione li hanno fatta il 4 di dicembre. Sì, allora, io dopo 4-5 mesi, vabbè, la mia operazione di inversa, però dopo 4-5 mesi ho camminato proprio quasi bene, non proprio bene, però ho fatto fisioterapia prima, tutto qua, io me l'ho salvata perché me l'ho fatta io, perché siccome per il Covid non hanno mandato fisioterapisti come me lo dovevano mandare, me l'hanno mandato casa dopo 2 mesi, meno male mi ha detto che lì ha fatto fisioterapia, se no questa avrebbe avuto la gamba di legno dritta. Rec, alza il suo casino oggi. Avanti. Ma c'è un importante, c'è. Ma mi pare che il semestre di l'opinione è importante. Oh, caboccia, mica sei un bel altro segnale, mica sto uscendomi, la roba è mille balle. Dove sta portando tu? Sotto casa tua? Lo so, c'ha 3-4 lo stesso segnale di Gianni, c'ha. Ah, boh, io qua non ho sentito niente, Artur. Ciao, buonasera. Buonasera, adesso vado a mangiare, dai. Cerca di non rompermi le scatole, che stasera sto uscendo. E vai, bucci grossi, cosa buona, importante a me, vai! No, adesso l'ho vista anch'io, Santiago 5 però qua. Ti mangia gli occhi! E vuol dire vicino a lui già. Io sento solo i tedeschi che parlano. Io non sento nulla. Ti dai già, sta arrivando forte qua. Adesso se mi rompo esco. Attento che non sia qualche tedesco, se non si riuscì in Germania. Perché c'è lockdown lì, vero Claudio? No, già è fuochi, no, via, non ti preoccupare. Ok, dai, continuate. Io tu, vai tranquillo, sereno, vai a mangiare, vai tranquillo, avanti già. Io non ho registrato questa portata, sicuramente è più vicino tra te e lui, perché no, io non lo registravo proprio, non riuscivo, infatti pensavo, pensai con me, no, non mi anche come stavi parlando tu c'era, solo che tu la facci tranquillamente, segnale 5 era. Lascialo qua, se lo fa difficile. Magari ma. Sì, magari uno che non esce, sta facendo le prove. Vabbè. Non problem. Avanti Giaffa. Questa ragazzotta chi è? Ah, faccia il segnale. Sentitela già. Sì, l'ho sentita. Questa è, ricordo che cucinavano soprattutto patate di quelle buone, è giusto? Ma stavo di cazzo per lo svago che vi funca. Ma non ti sento perché probabilmente era anche nel FM. No, qui al segnale. Infatti volevo dire, me ne sono dimenticato. Allora non è importante. Una propagazione, dai, non so. Che c'era, è strano che la propagazione adesso, in questo periodo è strano. Ieri c'era la propagazione, ma non era fortissima, arrivavano a Santiago 8, Santiago 7. Oh già, se tu, guarda, io siccome li vedo tutti i segnali, c'è la 26, la 27 Zeppa, ci sono tutti i canali occupati praticamente, dovunque vai trovi un questo, soprattutto dalla Germania all'inferno, ma ci sono anche inglesi, irlandesi, io diciamo molti francesi e molti spagnoli anche. Sì, è vero, perché sono andato in banda laterale e ne ho sentito anche io. Sì, anche qua si sentono. Sotto si sentono cerca persone, trick e track, a Nastri in 26. Poi, anzi ieri mi è capitata anche una cosa strana, forse non erano neanche francesi, perché erano quei francesi con l'accento arabo. Mi sa che erano o algerini o marocchini, perché era veramente forte la popolazione. Sì, anche in Africa parlano, una parte dell'Africa parla francese. Gappa gappa, infatti, e ieri. No, ma la popolazione, ieri c'era un bel, oggi c'è un frabù, io forse avevano più antenne, non lo so, non sto ascoltando in HF, non ce l'ho fatto. Sicuramente per quello, ma la propagazione alta non ne ho sentito io oggi. Tedeschi ci sono, no, me ce n'è anche una sotto adesso. No, io sto parlando solo di 27, lascia perdere le HF. Sto parlando solo di 27, c'era anche qualcosa in 28, ma niente di paragonabile rispetto alla 27. In 27, e adesso ad esempio mio, sui canali alti è zeppo, vedo tutto pieno di segnali, è una cosa da paura, segnali furti anche. È così, ti volevo dire piuttosto, prima che me ne dimentichi, adesso mi è venuto in mente, non è che c'è antenne V tipo, che ne so, X50, X qualcosa, mi serve un'altra antenna, mi sa. Non c'è niente là da vendere, da buttare, da riparare. Sai, con te la parola vendere non esiste, capito? Per me esiste la parola te la do e bu. Allora, io ho una VHF, però è monobanda, in acciaio oscillabile, che sembra un'antenna alla 27, ma non lo è. 5 ottavi, che è la fine del mondo. Tu immagini, io con la base magnetica nella finestra al secondo piano parlo con Alghero a Santiago 9, una canonata di antenna, se ti serve forse più di un metro, però è una signora antenna, è già fatta, veramente una signora antenna, attacco PL. Ma non è come quella che ti avevo dato io, era lo stesso VHF, te lo ricordi? Quella era in alluminio però. Qua è sul tetto. Ma stai parlando da macchina oppure per il tetto? No, da tetto, ti ho detto X30, X50. È di quel tipo lì, capito? Perché mi serve per attaccarci un preamplificatore. No, già, su quello non ti posso aiutare. Se avessi avuto l'altra, la 510, ma l'ho smontata e regalata, capito? Regalata a Luca, Flipper, per capirci. E niente, e poi infatti mi sono preso una X50 proprio per fare un po' di ascolto, per parlare in PMR, niente di che. Però su quella, sul tetto non c'ho più niente, se no te l'avrei fatta anche adesso già fatto. L'avrei portata a casa, non ci sono problemi. La macchina sì, la macchina ha una monobanda molto molto molto interessante, molto forte, una bellissima antenna, non è della Diamond, però è una marca conosciuta, adesso non mi ricordo, ma è spettacolare, è una ricezione e trasmissione, è spettacolare veramente. Ok, io non ho niente, Gianni non ha niente, bisognerebbe chiedere chi è che può averla, boh, non so, chiedo comunque se te la procuro, avanti già. Qualche radioamatore magari, quelle cose lì, le può fare Marco, le può fare Marco. figlio. No, vabbè, no, non c'è problema, non sono le... quanto è? 50, 60 euro il costo. Era giusto per, perché tanto la devo modificare, quindi... cosa ti volevo dire? Oh, mamma mia, la vecchiaia... boh, ma è passato di mente, ti immagini, ti prendi Claudio? Vecchiaia Claudio, cambiato poltroncina, che questa è più comoda, se c'ho due poltroncine, una più piccola, una più grande, questo è più comodo. Su quello già fra non ti posso aiutare, pensavo da macchina te l'avrei portata domani mattina, ma da casa niente, ho tolto tutto già fra. Sto aspettando anche il tempo buono per togliere i dipoli, non me ne vuoi nulla, niente. Lascio la Mantova e la X, quella che praticamente mi hai dato tu, la monomanda e la bimanda, basta. E questo ho tolto tutto perché tanto radio non ne ho più, non me ne faccio più niente, per ascoltare già c'ho l'altra antenna, ascolto con quella. E allora, purtroppo qui c'è ora di portare il cagnaccio, chi lo sa. No, io sto aspettando mia figlia, che era la parrucchiera, ma detto papà glielo porto io al cane, un attimo, fammi 5 minuti che sto arrivando, lo porto lì, anche se lo porto l'altro, cioè va bene, io non esco stasera, sono capito già, sono stanco, ma no, così va bene, te l'avrà arrivato 30 km. Quando c'è la necessità di farlo la salita. Molte volte non ce ne rendiamo conto, ma le donne fanno tutte queste cose e noi non ci rendiamo conto. Io so, così come ti faccio. Purtroppo era da fare e quindi adesso aspettiamo piano piano che ci rimette. No, per questo qui è stato sempre indipendente, eh? Perché cosa mi chiedeva sempre ora da lei una mano o fare io in cucina perché sa che sono bravo, quindi però per il resto non ce n'è problemi. Ehi, già va bene, ok. Vai, esce già fra, non so come aiutarti, ti aveva una Sandra malavata, sono malfatta la fregata, non so come aiutarti. Ah, ecco, poi già di hanno 250 euro con le antenne, le X50, X30, cosa? Una fesseria, io non mi ricordo quanto l'ho pagata, non mi ricordo, non so se c'era Massimiliano, no, non c'era Massimiliano. Non ricordo quanto l'ho pagata, ma poco più di 60 euro forse. A noi sta chiamando questo. Ti volevo dire, sì, non c'è problema, l'ho detto giusto perché ho capito che stai smontando tutto. Mentre invece per 50 ti informo che, cioè, sui 50 ci sono andato anche ieri, pensando che magari anche lì ci fosse, ecco, ho sentito giusto un CV lontano, però è proprio, sì, forse ci vorrebbe una direttiva, forse ci vorrebbe questo, ci vorrebbe quell'altro, però poi alla fine non è che si senta granché, perlomeno, proprio in 50, pochissima roba, poca. La direttiva fino a 5,20, cioè ce ne sta arrivando, pagata 600 euro a penna, buttata sul tetto, sbucata, adesso non più perché è smontata e mansarda, e mi pare avrei fatto, avevo fatto se no 7-8 collegamenti, non c'era mai niente, se non c'era poi solare i cosciamenti non è che lavorino, però ce li hai, se magari, cioè io arrivo a farci due chiacchiere in semestri e andiamoci, li facciamo a livello locale, però mi già fra, non la giro di buon in nuda, non me ne frega niente, infatti te l'ho già detto, ma se non arrivo alla 340 che è praticamente già promesso, lo do e mi cerco un 680 con i semestri, capito? 140 con la scheda dei semestri, e così ho il 430, 140 e 680. E va bene così, capito? Mia figlia è già arrivata, sento la motograppa che è arrivata. Avanti già. E io adesso chiudo, dai, che vado a vedere il telegiornale e poi siete più contento. Ci sentiamo dopo se coincide. Vi saluto, buona serata a tutti e buona carica quando la fate. Ciao, già. Grazie, due chiacchiere, frappe. Buona passeggiata, vai Gianfranco. Ciao. ciao Claudio, ci sentiamo allora, anch'io passo in quel ritiro. Buona serata anche Gianni, alle prossime. Ciao Gianfranco, se coincide a più tardi, altrimenti buona serata a tutti e buon proseguo di buon fine serata, ciao. Ma sai dire chi sei? Sei due ore sì, con chi sta portando. E a te lo dici a tu, dai, io sto andando, mi sto spostando da qua, ci sentiamo dopo. Suono di baracchino modificato, di quelli Colt. Sì, già l'ho sentito il bit, a tutti i dini, a tu, vivi sereno, dai. Ci aggiorniamo dopo. KK. Ma deve essere in Hawkinson, deve essere. E avanti. E mi chi sei? Giacomo, avanti Giacomo, ma c'è bisogno di mettere la portante così in continuazione. Parla più vicino al microfono che non ti ho sentito. Capo, stavano parlando gli altri e tu e ti. Ma chi è? Non lo so, dice che si chiama Giacomo. C'è qualcuno che vuole modulare, sento un segnale più basso, avanti. Pronto? No, c'è uno che chiama con la modulazione distorta, molto distorta, non si capisce chi è. Aspetta che ne FM poi. Becco. Avanti Massimiliano. Ciao a te, buonasera. Buonasera anche a te, buonasera. Così. No, c'è anche cosa, c'è Marco Condor, c'è. Chi c'è Marco Condor? Marco Condor, non Marco Conno. Ciao Marco, buonasera. Marco Conno. No, stavo notando che c'è questa portantina. Io sono qua coricato sul divano, no? Di spalle al baracchino. E sentiva questa portantina, no? Un po' quando parlava Claudio Gianfranco. Poi sono girato, guardate, di Santiago Nove, e ho detto stasera ti, e però non parla. E poi c'è uno che ha chiamato, ma è tutto distorto. Più tutti i segnali mandati laterali in FM, tedeschi, tutto c'è. C'è un po' di propagazione, là. Ciao Marco, ben entrato, sono entrato io, non tu. Buonasera, ben ascoltato. Mi date un controllo più chiaro di radio? Eccellente. Ok, da parte tua tu? Da sei criminal tu. Cosa vuoi? Ehi. Stai modulando, ma sei qua vicino sei. Non mi dico. Lo senti? No, non attivo. Cappa, no, tu sei qua vicino, sei, fidati di me. Si gioca. Che sei 9+30, sì. Massimiliano, radio qua è eccellente. Vai Antonio, dai il controllo a Massimiliano. Prova Massimiliano. Ok, va, Antonio, vedi un po'. 1, 2, 3, prova radio. Allora io ti sento appena appena a Saturino. Saturo addirittura? No. Non so, Saturo. Adesso no. Sono giù a Turuca. Ciao. Ma no, Anto, magari l'altro parlante è tuo. No, sta andando benissimo Massimiliano. Sto ascoltando col capo anch'io, è perfetto. Ok, va bene, ciao capo. Signorito, col capo, com'è, buono? Cosa? Il mio segnale col capo che mi sta ricevendo, è buono? Ottimo, come baracchino, 9,20 radio 5, con picchi positivi. Anche tu sei 9,20 con picchi positivi, KK, buono. Avanti il break. Buongiorno, buonanotte. Capa, stiamo bene, siamo, da che zona stai modulando tu? Qui la Sardegna, Sentito, vai, tu, onde è? Onde è? Un bacino, sei un bombo. Ma Charme Sheik, ha detto. Ma cosa cazzo Charme Sheik? Marco, sentito, vai. No, è tutto cupo, tutto... Ha detto che era Charme Sheik, che si prende lo bagno. Vuol dire che è ricco, beato lui. Io sono la Marina di Sorso, facendomi il bagno. Andà bene, KK. A tu, ma questa portanza quanto ti arriva, questa muzza? 9.30 mi arriva, qualcuno che è qua in zona, qualcuno che è qua in zona, ma ragazzi che non li comprende nulla di baracchino, sovramodula tutti. Ma io la so questa portante, Marco. Qua o è un portatile o è macchina? 6.9 qua e 9.30 la bombolina, provarci che sia pure un portatile. In macchina lo sentiresti anche tu, anche Claudio forse. Claudio non so se la vede nemmeno la portante. Claudio, la vedi sta portantina? Sì, Santiago Sei qua arriva. Ehi, allora per Sant'Antonio, molto per Sant'Antonio, per non dire attaccatomi. Allora, ecco un cacchio baracchino, magari anche mezzo modificato, cosa? Magari non ne comprendi nulla e si mette a sovramodulare gli altri. Perché qua mi arriva forte. Scucciamo, cosa c'è? C'è una recensione famosa, questo apparecchio, lo sai? Sì, se uscissero bene quelli che chiamano, bassi, sarebbe anche meglio. Cappa, l'altro è un bucaretta, là c'è un bucaretta bruttoso, ma questo c'è una recensione che... Guarda, tanto di cappello, lo sto usando già da qualche settimana, è una canna... Giù, ce l'ho avuto, ce l'ho avuto. È una cannonata, Eia, là l'hanno 87. Ascolta, ma sai se dentro c'hai la EPT 3006? Perché il 90% dovrebbe essere quella. Massimiliano, niente ne sai. Lui c'ha il modello con le levettine tonde. Eia, quello lì, la 3006, la scheda madre 3006. C'ha le trimerine, VR14, VR12, quello lì è mio. Uguale all'8001, però non ha frequenzimetro. Stessa scheda, doppio finale, 1969, una bella radio. Porco, perizzella! E beh, Luca, e beh. qua siamo, da troppo vado via, dai. Qua da casa. A domo, pac. E beh, Luca! Aspetta, bombolina, bomboletta, cambio! Eia, tutta birra so qui, no? Infatti, ci vuole la sciuma, avanti Massimiliano! Eia, ciao Lucarie, buonasera, abbia sentito! Positivo, cavolo, ci avrei avvicinato un po' di Michele! Comunque, allora, c'era un tipo che la voleva la radio, un camionista di Napoli, mi pare che era, non mi ricordo, vabbè. E praticamente dice che ha guardato le misure e nel camion non ci sta. Ma non ne ridi. Ma ti ha messo la fiacca al sedile e mi fate un bel raggio, a voglia. Come non ci sta? E accusa, la Massimiliano, capisci a me, chiede. Aspetta il futuro, non sovramodulare le persone. Lo so, purtroppo la gente, questi autisti cercano sempre quei 48 che si infilano, sai dove c'è il tachigrafo, c'è già il posto dove mettere anche il 48 che ci sta giusto. Queste radio così grandi è un problema da metterle, capito? Poi vabbè, ma chissà, giorno ne chiusa, va. Avanti Marco. Sì, magari per tirare sul prezzo. Ah, Luca? Pensa che io non mi ha fatto 125 euro. Scusa, ma se mi scritto 200 euro, non perdi tempo. Cazzo, mi scrivo 125 euro, vai. E se lo va a dire che è ficcatino in culo con 125 euro. No, ma è bello che il prezzo lo fa chi compra, capito? Dice, io voglio spendere così. Allora comprati un... Cosa ci viene un 125 euro? Niente. 125 euro spedito. Ma te rendi conto, cazzo? Un affarista, oh. Ma guarda, ma credimi sulla parola, io anche davanti a lui, guarda, io per presa prendo un cazzo, lo rompo, lo brucio, piuttosto che davanti a 125 euro. Paolo, Massimiliano. Guarda, io l'ho spedito stamattina, ma è finito adesso un modulare. Ho pagato 11 euro di spedizione. Vabbè, dai, adesso vengo a cercarti. 12 euro, poi ho pagato 11 euro. Aspetta, guarda. Da 125 addirittura, Bulgaria che 12 euro, te lo devi regalare allora. Ma Massimo, hai capito, buone bene, ti hanno sovramodulato. Cazzo, boh, allucinante. Stanno sovramodulando a me, Luca. Stanno sovramodulando a me, gli sto dicendo di smetterla, gli sto dicendo. Ma finché che sto uscendo, sto qui scendo a ciappallo. Cerca di smetterla, non rompere. Quando il tuo turno parli, per cortesia. Antu, sai cos'è? Che Massimiliano non lo passa, sei tu che lo passi, capito? Lo stai coprendo tu, non quello. Lo so, però gli sto dicendo smettila. Ma non sarà quello che fa la pernacchia, no? Non so questo. Santiago C qua è, Santiago C. Anche qua è basso, da me era 3, 4, così, ma Massimiliano è 9. Vabbè, comunque Massimiliano, ho capito bene quello che mi hai detto. Ne hai spedito uno? Ho detto che ho spedito io stamattina un 2009, capito? Ti ho pagato 11 euro. Ah, ho capito, via. Ma quello modificato, no? Appa già. E quanto l'hai venduto? No, non l'ho venduto, lo sto mandando a sistemare. Il 2009 è quello col frequenzimetro. Ah, ho capito. Per la spedizione hai pagato 11 euro, giusto? Via. No, per allacciarmi al tuo discorso, no? Se questo lo voleva 125 spedito, togliene anche 12 euro di spedizione e quindi glielo devi regalare. Ma non regalo da nessuno, che l'ho giù pagato, capito? Tanto da lì, per quel prezzo lì non si... No, di me non lo do, assolutamente. Cioè, riprendete, se ci siete dopo, io riprendo da casa. Tanto vabbè, devo fare un lavoretto anche, che devo risaldare un pezzo di un joystick della PlayStation. Riprendi, Claudio. Vabbè, Claudio. Scusami se sono sovramodulato, o Massimiliano, però vi sto dicendo di smetterla da mezz'ora, alla fine che esco col portatile e andate in caso. Ma tutti i bini, tu. Quanto hai speso Massimiliano? 11? Io 19 ho speso. Vabbè, però era d'accordo, un bel pesante, era 20, 22, 23, mi ha fatto 19 Francesco. D'accordo, pesante, c'era anche il mangereccio dentro, la radio, più altra roba, capito? Sì, era, diciamo, era 12,90, mi ha fatto 11, va. Vabbè, quello che hai fatto tu era 25, ti avrà fatto 19, è più o meno così, va. In base al peso e la grandezza. E me va bene, no, mi interessa. Adesso, in poche parole, mi sistema questo frequenzimetro che si sposta, me lo c'entra e me lo rimanda. Già va bene, ho gettato bene, già va bene. Sì. E poi io vado sempre a nome tuo, quindi non me ne affitto un da me. Avanti, bene. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. Compagnia di Massimiliano Bulldozer, Marco Grondo, Antonio Bombolo e Luca. E Luca del Monte. Avanti Marco, riprendi. Cazzo. Ciao, Teodoro Ginito, ben entrato e ben sentito. Rilancio subito Massimiliano. Vai Massimiliano. Sì, ciao Claudio, buonasera, ben entrato, ben ascoltato. È tutto oggi, avanti, bombolo. Cappa, salutoni, Teodoro Ginito, salutoni. Antonio Bombolo da Sassari, io devo fare un attimino di bianco. Ci sentiamo dopo, ok? Beccalo, beccalo. E Antonio va davvero a cercare la portante. Vai Claudio di Murox, vai. Sì, Claudio. Ah, boh, non lo so, io non c'ero in questo canale tutta la sera, sono entrato, guarda, 10 minuti, perché ho sentito a Marco e Antonio che li volevo salutare, tutto qua. Quindi, per me, io non la sento questa portante, sicuramente vicino a loro. Non mi portare tutta la sera con il dito premuto, manco nulla mi interessa. Ok, vai qua. Sì, capo, scusate, mi sono fatto aprire la porta, ero fatta l'aria. Va bene, sì, ottima modulazione, Claudio di Muros, va benissimo, la grande. Tu non ci mi dai, stai uscendo una favola, veramente bene, ottimo con la truppa. Ok, vediamo un po' se riprende Luca, se no riprende Antonio Bombolo, se non è uscito a trovare questo imbecille. Avanti Luca. No, claro, Luca ha detto che riprendeva da casa, che si stava sentando. Bombolo ha fatto bianco, ok, tu tieni d'occhio sempre lo smitterino, ok, tutto a posto, avanti Marco. Io ho un medico RMD, ho segnalini, QRM elettrico a Santiago 7, è un casino oggi, devo sempre ritoccare lo squelzo. Io vorrò farmi la caffeina, dai, riprendete, vai, Teodoro Ginito, bianco per me. Forse si è allontanato. Ocla, ti do una dritta. 6,5 radio 5, no, ti volevo dare una dritta su quanto riguarda lo spettrone. Allora, quando tu fai questa prolunghetta qua, per attaccare l'MB più 5 alla radio, sulla, diciamo, sul maschio dello spezzone, dove tu, inserisci lo spinotto dell'MB più 5, li mangi con l'animetto, li mangi, ho visto quella lettina che c'ha di senso obbligatorio per infilare lo spinotto, l'ho vista? Io avevo detto che togli quella, lo spinotto lo giri come vuoi e ti fa le connessioni che vuoi. Vabbè, uno inserisci nella radio, quindi quello lì è la femmina, il maschio dello spezzone e poi la femmina è attaccata al microfono. Sì, dai, salutami anche tuo padre che sicuramente sta ascoltando. Ma vabbè, al limite puoi fare così, lo spezzone è quello per sé, lo lasci il suo microfono e ciccia. Però con gli altri radio, lo spezzone, te ne usi uno solo e tu non fai altro che solo girare per trovare la posizione giusta, capito, con l'altro spezzone. Sì, ciao già, buonasera, ben ascoltato. Sì, così sto dicendo, capito, in modo che poi non stai lì a... con uno spezzone ti fai tutto, tu basta che giri poi la femmina del microfono, diciamo, e ti trovi la posizione giusta, capito? O se no già puoi fare un'altra cosa, dall'interno della radio te le fai tutte con una connessione, in modo che ti vanno bene tutti i microfoni che li metti, capito? Va bene, vai, allora, ciao Gianni. Ben ascoltato, l'ho portato, buon con Rix e ci sentiamo alle prossime. Vediamo se c'è Claudio Sparviero, Marco, qualcuno se vogliono riprendere. Claudio, ci sei? Sì, ma ci vediamo, sono andato a spegnere il forno, sono qua. Ciao Gianni Capri, buonasera, ben ascoltato, Corriere di te, saluti, dai. Davanti Marco non c'è, Luca non c'è, Antonio non c'è, riprendi tu Massimiliano, vai. Sì, positivo, no vabbè, Marco mi ha detto si spostava per il caffè, bombolo sicuramente sono uscito a Tecaghidu, e niente, Luca sta rientrando in domicilio, diciamo così, va. Va bene, quindi mi ascolti bene, Chiodo. Papà, ok, non schiacciare subito quando ti rilancio, lascia appena appena il bianco, sennò che riprenda qualcuno, sennò ci sovramoduliamo. Va bene. No, Massimiliano, è l'occhio sempre, io quando sono davanti alla radio la prima cosa che guardo è sempre lo smitter, quindi stai andando benissimo, segnale stabile a 9+20, radio super 5 alla grande, anche Claudio sta arrivando fortissimo, 9+20. Adesso aspettiamo se rientra Antonio, se ha trovato questo imbecille che stava disturbando. Avanti Massi. Sì, positivo. Guarda Chiodo che ti ho mandato una foto su Messenger perché non ho il tuo WhatsApp, va. Ok. Comunque anche questa la radio sta andando bene. Sta andando benissimo, io ti ascolto molto bene con questo. K di positivo, va bene e va bene. Ok. Ehi, Massimiliano. Sì. Quindi praticamente cosa te volevo dire? Te l'ha arrivata per fare quell'allineamento? Io. Ho fatto quell'allineamento e adesso è tutto, sembra tutto perfetto. Ok. Cappa, va bene. Sono a 15 watt e 80-100 moduvatti. Non ho capito, quindi se n'è accorto lui, vabbè che non l'ha mai trattata c'è radio, quindi cosa se n'è accorto lui, cosa scendeva di potenza? Era bassa di tensione vuol dire. Io sono un po' ignorante del campo, lui ha detto, mi ha fatto questo allineamento e adesso va bene, capito, è giusto anche di amperaggio adesso, ma io l'ho visto tutta la sera la sto usando e sembra che sta comportando bene, va? No, sta andando benissimo, te l'ho detto anche stasera al 28, perfetto, va bene, ok, pagato. E l'altra quando arriva? Il 19 febbraio c'è la data di arrivo, però poi magari arriva prima. Però arriva prima. E chiama, precisa chi c'è? Beh, certo, però siamo ancora male, ci ho fatto con quella esce bene, hai visto così, ma ce ne dà, già va bene, hai fatto bene, hai fatto benissimo, l'operazione che hai fatto è stupenda, quello che hai detto a me, va bene così, andare così, ma fatti di me. Avanti, chiodo arrugginito, con due R o con una? Sono rientrato, positivo, là. già si fa ascoltare, va. Quindi ho rientrato a Bombolino e lo rilanciamo subito, vai a tu. Capo, sono rientrato, non vuoi più no, l'imbecille. Adesso vediamo un po'. Ti vengono girando. E cosa vuoi fare? Stavo chiudendo. Aspetta. Chiodo, ma tu non c'avevi la radio modificata a colto, e quanto stava te la ordina io? E beh, cosa gli è successo a questo che c'hai, questo colto? Cosa c'hai rotto? Te l'ha compreso? Sì, ma non hai capito, io ti sto dicendo, ma tu c'hai anche un 48 colto, l'ho detto, giusto? Io quello intendevo, non quello GX, da. No, ho capito, no. Va bene, vai qua. Cappa d'errore, invece che abbasso la TV. Vabbè, c'era il primo Massimiliano a Coppa Italia, ieri c'era il Milan, oggi c'era Juve, Juve Genoa, quindi io vado a mangiare un boccone, dai, poi ritorno qua, così mi siedo, mi guardo la partita come ieri e faccio anche due chiacchiere, ok? Per il momento vi saluto, ciao Massimiliano, ciao Claudio, Marco Condor, Bombolino, mi sembra sia già rientrato, Luca Del Monte. Un saluto circolare a tutti, se ci siete a dopo Massi, ok? Va bene, ok, ciao Fla. Buona carica e buon tutto. E io fra anche qualche altro passaggio, poi scendo giù, anche io vado a cenare, non a pranzare. Ciao, vai, un saluto a tutti, vai Claudio, già ci sentiamo dopo al limite, ciao. Mangio un boccone e poi ritorno qua in radio, vai, ciao. È positivo, va, positivo, ho rilanciato, vediamo un po', Marco, Bombolino, adesso voglio riprendere. Ciao, salutoni Claudio, ce la risentiamo alle prossimine. Ebbene, Claudio Lamuros, mi senti? Già non so che sei chiodo arrugginito. Cappa, come ti arrivo a Muros, bene? Ma cosa del Diago 3? Che guasto, occhio a tutti i vati chiusi, ga. 1, 2, 3, prova. Sono tu quanto rincoglionito. Andiamo tutti i vati chiusi. Cappa, anche tu già mi arrivi 8, va. A voglia che va bene. Ecco un attimino, scusate. Scusa, qua. L'amplificazione, metti il microfono, come ce l'hai? Prova a aumentare un po' a 8. Giusto a fare una prova, sì, metti la 8. Vabbè, io ti ascolto meglio così, Vabbè, forse noi siamo lontani, però. Vediamo Antonio se D'Antonio si è migliorato. Avanti, Antonio. Forte di radio. Ok, facciamo entrare il break. Un attimino, la prova, se sto uscendo. Roberto, da questa parte. Sì, Roberto, ciao, già stai uscendo, ma sei tutto maratoloso. Ah, no, un microfono da palma, questo qua. Di un altro apparato lo sto provando, com'è, troppo forte? No, non è forte, è maratoloso. Ma chiaro, si capisce la voce? Sì, già si capisce, però un po' così, va. È un po' così, potresti migliorare magari abbassando leggermente il mic gain o un po'. Guarda questo se va meglio, 1, 2, 3 prova. Così è meglio. Ok, vabbè, no, stavo facendo solo una prova di. I microfoni da palmo, poi andava meglio. Questo va meglio comunque. Sì, sì, positivo, guarda, c'è anche Bombolo. Chiedo arrugginoso da Muros. Aspetta, poi ne un altro da provare, continuate poi ne provo un altro perché volevo fare una prova. Ok, vai, chiodo, riprendi. Aspetta, c'è la cosa importante. Allora, torna a fare anche a 9, a me fatica non ne dà. Però metti la 8, magari ti porti meno rumori, vai appresso. Metti la 8 che già va bene. Cappa, il coso.